cinci. Ho in corpo ferite che vanno rimarginate, e sopra il ring della vita metto in fila le giornate. In cassa non finire, sempre pronto a reagire. Guardo amori scomparire, dentro vuoti da riempire. Perdere da deboli, vincere non è facile. Lascerò sul campo il mio ricordo indelebile. Corroso dal mio orgoglio, svegliato ad ogni sbaglio. So bene ciò che voglio, tieni pure il tuo consiglio. Parole su parole, vuoi segnarci il buon umore. Gare masse in coppia, tirano fuori un genitore. Favori regalati portano sempre a collassi. Da sempre zero saldi e pago un cazzo a prezzi bassi. Rifiuto il tuo aiuto se poi mi viene rinfacciato, e conto solo sui principi che da sempre coltivate. E sono pronto e vivo il mio giorno. Questa è la realtà che mi stringe a fondo. E sono pronto e vivo il mio giorno. Questa è la realtà che mi stringe a fondo. E sono pronto e vivo il mio giorno. Questa è la realtà che mi stringe a fondo. Sono pronto e vivo il mio giorno. Questa è la realtà che mi stringe a fondo. Amicizie false ho per tutta la vita. Salvo un pugno di persone da una lista infinita. Emarginato, sfruttato, non l'ho dimenticato. Presenterò il conto che nessuno ha mai pagato. Se vivere è reato allora sono condannato. Svesti panni buoni e poi ti lascio sul selciato. Pericoloso quanto una lama di katana. Fungo atomico, sterminatore, figlio di puttana. Pulp come Samuel Jackson, niente fiction. Realtà che porto in corpo dall'inizio. Compagno di viaggio, il tuo pregiudizio. Farcela da solo è diventato il mio vizio. Stanco di consigli futili, sempre inutili. Ci danno un contentino per sentirsi più nobili. Noi restiamo immobili davanti alla tua offerta. Bounce del vedere dentro la realtà più incerta. Sono pronto e vivo il mio giorno. Questa è la realtà che mi stringe a fondo. Sono pronto e vivo il mio giorno. Questa è la realtà che mi stringe a fondo. Sono pronto e vivo il mio giorno.